Europa 24. Cari ascoltatori, un saluto da Gigi Donelli, benvenuti all'appuntamento con l'Europa. Ripartiamo dalla Brexit, una nota del ministro Padoan che chiede agli inglesi e dice gli inglesi devono fare una scelta dopo il referendum. La situazione è poco gradevole per tutti gli europei, ha aggiunto Pier Carlo Padoan. È un problema degli inglesi, non degli scozzesi, ha spiegato all'assemblea annuale dell'ANEA. Sta loro attivare il processo. Credo che sia poco gradevole per tutti noi che viviamo in questa fase di sospensione. Direi che questa è un po' la linea ormai unanime e univoca che arriva dai massimi funzionari europei verso Londra. Intanto oggi plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, la prima sotto la presidenza slovacca. Il discorso di apertura è toccato comunque al premier olandese Mark Rutte, che sentiamo in sottofondo. Mark Rutte ha ricordato i temi principali del semestre concluso, appunto con la presidenza olandese, che di fatto sono quelli che poi ritroviamo in questo semestre a guida slovacca: immigrazione, dunque terrorismo, mercato unico e ovviamente la Brexit. E poi l'intervento del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, lo state sentendo tra i passaggi del suo intervento. Juncker parla delle priorità e dice una delle grandi priorità è completare il mercato unico, partire da una fiscalità delle imprese più giusta, ma anche di assicurare, ha detto, quei finanziamenti indispensabili alle imprese, soprattutto alle piccole e alle medie imprese, con la realizzazione di un'unione dei mercati dei capitali e, ha concluso, dell'indispensabile unione bancaria. Non si può avere il mercato unico senza assicurare le quattro libertà, tra cui quella di movimento, ha poi ribadito il presidente della Commissione europea. Sempre stamane l'intervento di Gianni Pittella, sentiamolo. Non vi dovete lasciare intimidire. Dovete andare avanti. Sì, i negoziati sul Brexit devono essere rapidi e non si può perdere tempo ad aspettare che gli iscritti del Partito Conservatore eleggano il nuovo leader. Ma è assurdo! Fa specie che gli eroi del disastro lasciano che il disastro produca le macerie e tornano qui nel luogo che loro hanno definito l'inferno. Alla faccia della coerenza. Noi dobbiamo agire. Sul sociale serve slancio per azzerare il dumping, serve una lotta a tutto campo contro il dumping fiscale, i paradisi fiscali, bisogna finirla una volta per tutte con l'austerità, applicando le regole di bilancio con flessibilità e intelligenza. Oggi è il tempo dell'azione, non dei rinvii, dell'unità nel fare, non dell'unità nello stare a guardare. Questo era Gianni Pittella, dunque il presidente, vicepresidente del Parlamento europeo e responsabile per i socialisti e democratici. E adesso in conclusione ci occupiamo del tema ricorrente in questi giorni delle banche. Oggi, con una cerimonia che si svolge proprio in questi minuti a Francoforte, viene presentata la nuova banconota da 50 euro, la quarta della serie appunto europea, che progressivamente sta sostituendo i primi tagli in vigore fin dagli esordi della valuta unica. In questo contesto appunto a Francoforte si riflette ancora sulla delicata questione delle banche. Il servizio. Le banche italiane sono sotto i riflettori e con loro le mosse che Palazzo Chigi sta studiando con Bruxelles. Renzi cerca di raggirare le regole europee per salvare il settore bancario con fondi pubblici, scriveva ieri il Financial Times. Ricostruzione poi smentita. La Süddeutsche Zeitung parla invece della preoccupazione del governo tedesco, disponibile però a trovare un compromesso con l'Italia. Le norme concedono spazi di manovra, ripetono da Berlino, Bruxelles e BCE. Roma vuole risparmiare gli investitori privati, chiamati in causa dalla direttiva sul bail-in. Le trattative sono serrate e il tempo stringe. A fine luglio l'EBA, l'autorità bancaria europea, annuncerà i risultati degli stress test che misurano la solidità delle banche europee nel caso di scenari avversi. Rispetto a due anni fa, quest'anno non ci saranno promossi o bocciati e non sono previsti interventi immediati